Incontri di Gianfranco Fabi. Con questo brano del Carmina Burana, O Fortuna, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Alberto Foà. Buonasera. Il Carmina Burana, un'opera di Karl Orff dell'inizio del Novecento, ma che si rifà dai testi medievali. O sorte, come la luna mutevole, sempre cresci o decresci. Come mai questo brano l'ha colpita Alberto Foà? E poi spieghiamo chi è Alberto Foà, ovviamente. Beh, innanzitutto è un bel brano. Chi lo sente penso che possa apprezzarne le virtù. E poi mi è sembrato che mi introducesse il tema finanziario. Appunto, come la luna cresce e decresce, o sorte, ci vuole un po' di fortuna, bisogna sapere che l'economia e i mercati sono ciclici e quindi... E quindi bisogna appunto pensare che bisogna fidarsi un po' alla fortuna, ma un po' anche alla ragione. Assolutamente, assolutamente. Alberto Foà, presidente di A come A SGR, Società di Gestione del Risparmio, è stato uno dei fondatori di Anima SGR negli anni 90. Nel 94. Una delle prime più importanti società di gestione del risparmio. Non una delle prime, ma sicuramente fu una società importante, sicuramente fu la prima società indipendente, cioè che non era legata ad una propria ad un gruppo, non era legata ad una rete distributiva, e fu la prima società ad introdurre in Italia il concetto del third party, cioè della distribuzione, della separazione fra produzione e distribuzione, che poi fu sviluppato poi dagli asset manager esteri, e ormai diciamo è un concetto normale. Ecco, l'Italia sotto questo fronte era un po' in ritardo. I fondi comuni di investimento sono nati più tardi che rispetto agli altri paesi. Sì, però poi si erano sviluppati bene. Il problema dei fondi comuni in Italia è che ogni società di fondi comuni era distribuita dal proprio gruppo bancario, quindi c'era, diciamo, la cosiddetta integrazione verticale, cioè certa convergenza di interessi, se sì, non ma al di là della convergenza di interessi, diciamo, non c'era concorrenza, non c'era libero mercato, non c'era possibilità per l'SGR di concorrere fra di loro anche sulla base della qualità e delle performance, quindi era un mercato, diciamo, un po' chiuso, un po' ristretto, un po' incapace, sì, di crescere. Sì, più che incapaci di crescere, incapaci di competere, diciamo, la competizione era a livello della distribuzione ma non a livello del prodotto, e quindi questo sacrificava un po' la qualità e la capacità di innovare del prodotto. Ecco, Alberto Foà, com'è nata la sua passione per il risparmio, per i soldi degli altri? Ma io, più che la passione per il risparmio, ho avuto, diciamo, si è sviluppata in me la passione per i mercati finanziari. Dopodiché l'idea di portare i mercati finanziari al grande pubblico, anche questo è un concetto che mi è piaciuto, cioè l'idea che le performance siano pubbliche, tutti possono verificarle, che si può competere sul mercato aperto, che si può far vedere quanto si è bravi o quanto si è meno bravi, insomma questa idea che tutto sommato i propri risultati siano sotto gli occhi di tutti è una cosa che mi affascina, mi piace, anche perché normalmente i risultati sono buoni, quindi mi piace di far vedere che lo sono. Ma voleva fare il finanziere fin da piccolo, o da piccolo voleva fare il pompiere, l'ambasciatore, l'astronauta? No, da piccolo non pensavo a cosa volevo fare. Com'è capitato di entrare nel mondo della finanza? Ma è capitato, diciamo, io ho intrapreso una carriera da economista, nel senso che avevo studiato economia politica, poi ero andato a specializzarmi negli Stati Uniti con una borsa di studio alla Banca d'Italia, avevo cominciato a lavorare al servizio studi della Banca d'Italia, e poi man mano che andavo avanti, diciamo, il mondo degli studi, dell'economia mi sembrava un po' teorico, e quindi alla fine sono passato a un campo più applicato. Ecco, però poi negli ultimi tempi è tornato un po' nel mondo dell'economia, senza abbandonare la finanza, però ha messo in piedi qualche iniziativa di divulgazione economica. Beh, sì, innanzitutto io ritengo che i migliori studi che si possano fare per essere, diciamo, dei bravi finanzieri o dei bravi investitori siano gli studi macro, cioè di economia politica. Io ho sempre continuato a leggere di economia, di temi economici, di economia politica, e sono temi che continuano a appassionarmi, ma penso anche che siano temi che siano letture utili per il mio lavoro, anche se non proprio, diciamo, legate direttamente, ma avere una certa visione del mondo in termini allargati, certo, è molto utile per chi fa questo. Anche perché è un mondo che cambia molto rapidamente. Sì, ma al di là di questo, anche, diciamo, la lettura di libri un po' più di carattere generale, diciamo, quindi non di mero aggiornamento, ma, diciamo, so, come quello uscito ultimamente di Capital in the first, 21st Century di Piketty o altri, sono libri che non aiutano, diciamo, per la contingenza, ma sicuramente aiutano ad avere una visione allargata, e questo penso che sia molto importante. Non so se apprezza le tesi di Piketty, che sono quelle di tassare le rendite, tassare il risparmio, tassare i grandi patrimoni. No, io non diciamo, sulla conclusione non concordo, però sull'analisi di Piketty concordo, cioè il fatto che ci siano le disuguaglianze, questo certamente. No, non solo che ci siano le disuguaglianze, quelle ci sono sempre state, ma che le disuguaglianze negli ultimi 30 anni siano crescenti, sia per quanto riguarda i redditi che per quanto riguarda la ricchezza, e questo è vero, e che questo tema in qualche modo vada, quello che, diciamo, in gergo giornalistico si definisce la sparizione della classe media, certo, no? Quindi che i redditi e la ricchezza siano sempre più polarizzate, che ci sia una fascia più piccola o molto piccola popolazione che ha una quota sempre maggiore dei redditi e della ricchezza, questo penso che sia un tema che vada affrontando. Ecco, appunto, temi economici di cui si dibatte molto. Lei, appunto, diceva, ha portato anche in teatro i temi economici. Beh, diciamo, in Italia, come forse anche da altre parti, ma in Italia in particolare, il tema economico è poco conosciuto, anche l'Italia è sempre stato un paese ideologizzato, quindi ci si schierava o di qua o di là, o a destra o a sinistra, vive i ricchi, vive i poveri, vive i lavoratori, abbasso gli imprenditori, e anche questo secondo me è un fattore che ha portato a una scarsa conoscenza pratica di quelle che sono le leggi dell'economia, del mercato, fattore che secondo me penalizza molto gli italiani, sia a livello personale che anche a livello di risparmio e investimenti. E quindi abbiamo pensato, con queste ultime iniziative, La verità vi prego sul denaro, che abbiamo fatto al Teatro Franco Parenti di Milano, di cui si possono trovare tutte le registrazioni sul nostro sito acomea.it, di portare l'economia in teatro e quindi di raccontare dei fatti economici in maniera, diciamo così, non noiosa, mettendo insieme degli attori, dei comici, Gifuni, Haber, Joelle Dix, è venuto un grande filosofo come Carlo Sini, e devo dire che l'iniziativa ha avuto un enorme successo, tant'è vero che pensiamo di ripetere l'anno prossimo con altri intellettuali, altri pensatori ed altri attori, sempre al Teatro Franco Parenti. Ecco, magari su questo tema proprio della divulgazione economica, della necessità di far capire l'economia, ma soprattutto la finanza, che non gode di molta buona fama, soprattutto in questo periodo. Magari torniamo nella seconda parte del nostro programma, del nostro incontro con Alberto Foà. Dobbiamo fermarci un attimo per le importanti notizie sul traffico, ma restate con noi. Incontri. Ancora con le travolgenti note del Carmina Burana di Karl Orff, continuiamo il nostro incontro con Alberto Foà, presidente di Acomea SGR, uno dei fondatori di Anima SGR, Società di Gestione del Risparmio. Abbiamo parlato della prima parte della sua esperienza prima come economista, poi impegnato nel campo finanziario, appunto nelle società di gestione del risparmio, ma anche come ultimamente protagonista, animatore di un'iniziativa di incontri, un ciclo di incontri di divulgazione economica intitolati La Verità, vi prego, sul denaro. Ecco, perché questo titolo, La Verità, vi prego, sul denaro, Alberto Foà? Beh, diciamo, il titolo riprende quello di una canzone, però l'idea è quella di cercare non tanto di avvicinare il pubblico alla verità, perché la verità, come si sa, certo, assoluta non esiste, le opinioni sono sempre diverse. Soprattutto sul denaro non esiste, sì, ma in cose, generale, cose, diciamo, come tutte le cose di cui si dibatte, la verità assoluta non esiste. Però l'idea è quella di cercare di dare spunti di riflessione, temi di approfondimento in maniera, diciamo, laica, in modo aperto, lontano, sì, dai soliti luoghi comuni, dai soliti schemi. Cioè, abbiamo per esempio raccontato la storia di John Law, la storia di questo ministro delle finanze del Settecento durante la reggenza di Filippo di Orléans, che ha inventato in qualche modo la circolazione monetaria, o ha più che inventato, diciamo, ha diffuso in Francia la circolazione monetaria, ma poi ha creato una gigantesca bolla speculativa con le azioni del Mississippi. Quindi riteniamo che sia utile, diciamo, trarre lezioni dal passato, dalla storia, certo, perché è vero che la storia e il passato non si ripetono mai esattamente, ma come dicevano i romani, storia magistra vitae, e sicuramente dalla storia si può imparare qualcosa si possono in qualche maniera sviluppare degli schemi anche di ragionamento, cioè capire che molti temi poi, anche se si sviluppano in maniera diversa, ricorrono, e questo sicuramente può essere di insegnamento. Ecco, gli italiani sanno gestire il proprio denaro, no? Noi abbiamo parlato qualche tempo fa del libro di Legrenzi, gli italiani non sanno gestire i propri risparmi, sono molto impulsivi, non sono razionali. Secondo lei come... Beh, diciamo, c'è una vastissima letteratura sul fatto che non solo gli italiani, ma già i risparmiatori non siano razionali. Certamente l'italiano, più che forse nei paesi anglosassoni, magari diversamente che da altri paesi, ma è molto lontano dal mercato azionario. Cioè, l'italiano è abituato alla sana cedola, diciamo, dei titoli di Stato, di altre obbligazioni, tant'è vero che poi gli italiani in particolare sono rimasti vittima di obbligazioni ad alta cedola, come i titoli argentini o i titoli Parmalat, o per esempio adesso si fanno, scusi il termine, infinocchiare dai fondi a cedola, cioè quei fondi che dicono stacco la cedola. In realtà non è chiaro a molti che questo stacco cedola dei fondi in realtà in parte viene fatto col risultato dei fondi, se c'è, in altra parte viene fatto rimborsando parte al capitale, parte del patrimonio. Quindi è come se uno depositasse 1000 euro in banca, poi gli danno 10 volte 100 euro e dicono ti ho dato la cedola al 10%, sì, perché alla fine non è rimasto più niente, non c'è più capitale. Quindi il mito della cedola per gli italiani è molto importante, e c'è anche qualcuno, diciamo, che ci approfitta. Non parliamo di truffe, però comunque di approccio borderline sicuramente. Ecco, invece quello volevo dire è che gli italiani invece sono un po' troppo lontani dal mercato azionario, hanno una diffidenza verso il mercato azionario, forse perché... scottati, appunto, la storia qualche volta insegna. Beh, però scottati perché? Perché i mercati finanziari internazionali, cioè non è obbligatorio investire sul mercato azionario italiano, un mercato un po' ristretto, un po' asfittico, dominato da banche e assicurazioni, però normalmente negli ultimi anni chi avesse investito nelle borse internazionali, seppur ovviamente con alti e bassi, ha ricavato importanti soddisfazioni. Quindi gli italiani, secondo me, con un pochino più di fiducia dovrebbero avvicinarsi al mercato azionario, forse perché l'italiano è una matrice anche culturale di diffidenza verso l'impresa, verso il capitalismo. Beh, insomma, anche l'impresa qualcosa ci ha messo, non ci siamo fatti mancare nulla a livello di fallimenti e livello sì di... Però anche questo, secondo me, fa parte dei luoghi comuni, nel senso che è chiaro che sui giornali vanno sempre a finire le truffe, certo, e i raggiri, cioè è chiaro che sui giornali va a finire la Parmalat piuttosto che la Enron. Purtroppo sono, però esistono e quindi non, certo, si possono. Però voglio dire, in un portafoglio azionario non è che i 100 aziende sono tutte 100 aziende che falliscono. Appunto, sui giornali finisce l'azienda che fallisce, non le 99 aziende che non falliscono. Fa più notizia l'albero che cade che non la foresta che cresce, si diceva. Esattamente. E quindi, appunto, come dicevo prima, gli italiani forse un po' anche fuorviati da una matrice ideologica di natura cattolica o comunista, cioè tutte, diciamo, un po' schematica forse. Sì, anti, diciamo, correnti di pensiero che hanno diffidenza o se non addirittura ostilità nei confronti del mercato, sono stati lontani dai mercati azionari. Penso che nel portafoglio degli italiani in generale, diciamo, dovrebbe esserci una percentuale un po' più elevata di azioni. È quello che voi fate anche nella gestione dei risparmi che vi sono affidati. Ecco, c'è una cosa che mi ha colpito nella vostra presentazione: vi affidate a una valutazione razionale sul valore dei titoli indipendentemente dal consenso dei mercati, da previsioni sul futuro e da modelli matematici. Cioè, dalle classiche cose che invece sono considerate come importanti per la gestione, appunto, degli investimenti, come vanno i mercati, quali sono le previsioni sul futuro e un po' di matematica per capire quali sono le tendenze. Ecco, voi lo escludete? Noi non ci affidiamo sicuramente alle previsioni, se ci siamo ormai negli anni. Siamo un team di gestione molto rodato, Giovanni Brambilla, Giordano Martinelli, Roberto Brasca e io siamo insieme dai tempi di Anima, da 20 anni, adesso in questa esperienza di A come A SGR, e ormai abbiamo disimparato dal fare previsioni, prima di tutto perché le previsioni non servono a niente, specialmente quando riguardano il futuro. Beh, di solito servono per spiegare come mai si sono sbagliate. Esattamente. Noi non guardiamo quello che succederà, perché non lo sappiamo, diciamo, nel migliore dei casi abbiamo il 50% delle probabilità di azzeccarci. Noi guardiamo invece quello che si può guardare, cioè i prezzi e le valutazioni. Quando questi invece si possono guardare, cioè di un titolo obbligazionario si può vedere se il rendimento in rapporto all'inflazione è alto o basso, se l'emittente o l'emittente è solvibile o non solvibile, di un titolo azionario si può vedere se il rapporto prezzo utili o price to book o altri 100.000 rapporti o bilanci che si possono guardare sono interessanti o no, e si può osservare il prezzo che viene fatto ogni giorno, ogni minuto sul mercato. Quando questo è interessante, noi in generale compriamo. È interessante vedere che normalmente i prezzi sono, o le valutazioni sono tanto più interessanti o tanto meno interessanti quanto più le previsioni sono brutte o sono belle. Cioè, in generale, quello che si trascura di capire è che i mercati sono dei meccanismi di sconto delle aspettative. E quindi, quando il prezzo di qualche cosa è basso, evidentemente l'aspettativa, certo, è già pessima, e quindi noi in genere compriamo su previsioni o aspettative pessime e vendiamo su previsioni o aspettative ma ottime. Se poi le previsioni pessime si rivelano veramente pessime, il prezzo basso diventa ancora più basso. Beh, no, se le previsioni si rivelano pessime, il prezzo basso rimane dov'è. Se le previsioni si rivelano ancora più pessime, il prezzo basso diventa ancora più basso. Cioè, per dire, faccio un esempio: nel marzo 2009, durante il picco della crisi americana, ovviamente se lei comprava il Wall Street Journal, il Financial Times o Business Week o qualsiasi giornale, vedeva che le previsioni erano micidialmente brutte, non c'era nessuno in quel momento poteva, sì, esprimere un'aspettativa positiva. Eppure il mercato azionario americano ha toccato il minimo nel marzo 2009 con lo Standard & Poor's a 650. 5 anni e qualche mese dopo siamo a 3 volte di più. Oggi che il mercato è salito del 300%, normalmente quello che si sente, si vede o si legge è più ottimistico, non più pessimistico. Ecco, però qualcuno è rimasto col cerino in mano, come si dice, qualche titolo azionario. Non si rimane mai col cerino in mano, a meno che non si voglia rimanere col cerino in mano, nel senso che si rimane col cerino in mano solamente quando si compra 10 e si vende a 5, allora è chiaro che si cristallizza. Sì, però se la società ha comprato arrivata a 5 a un certo punto chiude e vale 0, allora a quel punto. Beh, questo è certo, però vuol dire nessuno, questo ormai è inutile ripetere, dell'ABC, nessuno mette tutti i propri risparmi, certo, in un'unica diversificare società. Diventa essenziale nella, quindi nella in generale, diciamo, i mercati, se si parla di mercati azionari, ma anche se si parla di mercati obbligazionari, quando si approccia a un mercato ci sono due cose da tenere presente. Il primo, che ovviamente non ci si può affidare a un unico titolo, proprio perché, come dice, certo, lei, l'unico titolo, anche per motivi non truffaldini, anche per così, per il mero rischio di impresa, una società può andare male perché ha avuto sfortuna. Ecco, ci avviamo alla conclusione. Si è parlato molto negli ultimi tempi, appunto, di una separazione tra finanza ed economia reale. Si sta un po' riavvicinando, si stanno riavvicinando questi due elementi essenziali nell'economia moderna. Allora, la finanza è sempre stato un elemento dell'economia, nel senso che la finanza, forse si scorda di ricordare questo, la finanza è quello che trasferisce i soldi da chi ha saldi attivi a chi ha bisogno di soldi per investimento, e trasferisce le scadenze, nel senso che trasforma, diciamo, il breve in lungo. Quindi l'economia reale senza la finanza non può crescere, la finanza è l'olio dell'economia. È vero che in questi ultimi anni la finanza si è un po' avvitata su se stessa, cioè ha tentato di fare i soldi con i soldi, insomma, senza passare... finanza ha sempre fatto i soldi con i soldi, la finanza ha sempre, cioè, su questo non vorrei che ci fossero illusioni. La finanza è l'unico settore dove si fanno i soldi con i soldi, ed è proprio per questo che la finanza è regolata. Uno dei motivi per cui la finanza è regolata è perché la tentazione poi di fare soldi con i soldi in maniera non lecita, quella c'è sempre, ed è il motivo per cui la finanza è sorvegliata e regolata. Che ci sia questo grande riavvicinamento, soprattutto se guardiamo il mondo anglosassone, ancora non mi sembra. Però stiamo su questa strada, possiamo sperarci. Diciamo, si è tentato, soprattutto con la legge Dodd-Frank, di ripercorrere questa strada, di imboccare questa strada, ma per il momento non mi pare che siamo ancora là. Quindi comunque è un mercato, quello finanziario, che va osservato attraverso i professionisti, ma va osservato anche con un'attenzione da parte di tutti. È un tutti minimo di conoscenza, come qualsiasi cosa, anche quando si va a ordinare una pizza, un minimo di impegno ci vuole. Grazie ad Alberto Foà di essere stato con noi, presidente di Acomea SGR, fondatore di Anima SGR, protagonista e anche animatore di incontri sull'economia che hanno animato gli ultimi mesi a Milano, e di cui ci ha promesso che faranno altre edizioni l'anno prossimo. Grazie ad Alberto. Grazie a Fui di essere stato con noi questa sera, grazie anche a Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.